tener algún destino. La scena è individuale che prende appunto, va benissimo, va bene. Allora, buonasera. No, no, no, non addosso, addosso. Non addosso, guarda. Ecco. Bene, grazie. Bene. Ah, va bene. Paolo Vascellani, presidente della cooperativa Elabor, socio della Banca Popolare Etica, che da anni attivo, diciamo, all'interno del movimento titano, si dà da fare, forse poi ha a che fare con le tematiche dell'energia, del sistema energetico, come proposte per l'energia rinnovabile, che adesso un po' illustrerà i suoi progetti, probabilmente anche quelli con qualcosa che fa la Banca Etica a proposito di energie rinnovabili. Quindi passo la parola, grazie Paolo di essere qui con noi, prima di parlare per gli studenti, cercherò di apprendere anch'io. Grazie, buonasera a tutti, grazie anche di avermi invitato. Io sì, sono qui un po' in questa doppia veste, da una parte come fondatore e presidente di una cooperativa che è la Elabor, che si sta occupando di questi temi, poi spiego anche un pochino meglio cosa stiamo facendo. Dall'altra parte come socio attivo di Banca Etica, impegnato appunto soprattutto nell'organizzazione dei soci, nell'organizzazione territoriale dei soci. Sono stato coordinatore dei soci della provincia di Livorno e Pisa per qualche anno. Attualmente sono vice coordinatore dei soci dell'area centro Italia. Teoricamente io non avrei diritto di parlare a nome di Banca Popolare Etica, nel senso che sono un socio, siamo in 30.000. Quindi io non è che abbia un particolare diritto, però diciamo in questo caso abbiamo chiesto a Banca Etica, alla struttura proprio di Banca Etica, abbiamo chiesto se mi autorizzavano a parlare a loro nome, mi hanno detto di sì e quindi in qualche modo lo faccio. Ovviamente non entrerò e non sono neanche in grado di entrare nei dettagli operativi, poi no, se incominciate a chiedermi i tassi, quanto costano, eccetera, eccetera, non è il mio compito, per quello dovete andare da quello che noi chiamiamo banchiere ambulante, cioè Massimo Ronchieri, che sì, attualmente nella nostra zona è Massimo Ronchieri. Non sapevo bene che titolo avevate dato voi al mio intervento, non sapevo bene che titolo dare anch'io, comunque alla fine ho tirato fuori questa impresa etica ed energia, vediamo se può avere senso oppure no. Così. Allora, intanto credo che ci sia bisogno di qualche parola per spiegare che cosa intendo con impresa etica, diciamo, cosa generalmente si intende, anche se poi ognuno ha la sua idea. Un'impresa etica è un'impresa che sostanzialmente fa quello che fanno tutte le altre imprese, cioè cerca di produrre ricchezza, produrre lavoro, trasformare in qualche modo, offrire dei servizi, no, tutto quello che fanno le imprese normali. L'impresa etica non si caratterizza per quello che fa normalmente, almeno, no? Ma si caratterizza per come lo fa. No? Quindi fa tutto quello che è impresa, tutto quello che è il mondo impresa, con in più questa accezione di etico. Etico può avere tanti significati diversi, nel caso di Banca Etica, ma anche nel caso della Elabor, che è la cooperativa che ha fondato, etico significa avere rispetto di tutta una serie di cose che sono extra impresa, diciamo, che non riguardano, non sono costitutive di un'impresa normale, per esempio rispetto per l'ambiente, per dire una cosa, no? Tanti, l'impresa, no? Di suo, nell'accezione che normalmente abbiamo di impresa, non è che un'impresa deve essere per forza rispettosa dell'ambiente, no? E di fatto, di solito, molto spesso non lo è, no? Anche se poi forse lo è più volte di quanto non crediamo, però diciamo non sta nel suo statuto di essere rispettosa dell'ambiente. Rispettosa dei rapporti umani, per esempio, no? Rispettosa dei lavoratori, per cui un lavoratore che, diciamo, per poter fare il suo lavoro deve rinunciare a tutta un'altra serie di cose che noi riteniamo importanti nella vita di una persona, non è etico, no? Se uno deve lavorare 20 ore al giorno e non ha tempo da dedicare alla famiglia, alla sua formazione, a tutti i rapporti normalmente umani, così questo per noi non è etico. Se guadagna troppo poco per sopravvivere lui e la sua famiglia, per noi non è etico, eccetera, no? Se non c'è un rapporto così sereno, no? È chiaro che all'interno di un'impresa ci possono essere tanti ruoli diversi, però ci deve essere anche un ruolo sereno, un rapporto sereno fra i ruoli che ci sono. Non c'è quello che comanda e quello che obbedisce sempre e comunque. È chiaro che è diverso, io sono presidente della cooperativa, a un certo punto è chiaro che in un certo senso la comando, non è che posso dire vabbè ognuno faccia quel che gli pare, ragazzi, stiamo tutti sereni, no? Cioè, devo in qualche modo guidarla, no? Però devo guidarla anche attraverso il consenso, comunque cercando il consenso degli altri soci, di quelli che sono lavoratori. I nostri lavoratori sono tutti soci, per cui diciamo così, no? Però diciamo col consenso, e non soltanto col consenso, perché se no quando scade il mio mandato quelli non me lo rinnovano, no? Ma col consenso, perché è bene che ci sia un rapporto sereno fra tutti. E vabbè, insomma, adesso non ce ne sono tutta una serie di criteri, no, che si regolano, che determinano il fatto che noi ci fregiamo in qualche modo di questo aggettivo etico. Per quanto riguarda Banca Etica, che non è una cooperativa di 15 persone come la Elabor, ma appunto è una sempre cooperativa, ma con 30.000 soci, persone giuridiche, eccetera, eccetera, 200 dipendenti, uno status di banca e quindi con tutti i controlli che derivano, con tutti gli obblighi che ne derivano, eccetera, eccetera. Invece lì c'è la cosa un pochino più formalizzata di così, e c'è un codice etico che stabilisce quali sono i comportamenti così. E comunque, diciamo, anche a livello così puramente divulgativo, quando è stata costituita, i soggetti che l'hanno costituita si sono messi d'accordo su una serie di vincoli, che appunto sono quelli che, magari detto in un altro modo, ma quelli che vi stavo dicendo io, comunque sono scritti, no? Si possono consultare se andate sul sito della banca o se avete del materiale informativo, eccetera, eccetera. No, ci sono scritte un certo numero di vincoli, diciamo, che la banca si è data, e essendo banca, nel caso specifico ci sono dei vincoli proprio sul denaro anche, no? Per esempio il fatto di non accettare denaro di provenienza illecita, no? Cosa che nessuna banca ha di suo, come, no? Per esempio, questo si esplica oggi, proprio in questi giorni, no, rifiutando di aderire al progetto di scudo fiscale, no? Perché quelli sono soldi di provenienza illecita. Formalmente, qualsiasi persona che diventa cliente o socio di Banca Etica sottoscrive una dichiarazione in cui dice che lui non verserà presso Banca Etica soldi che, diciamo, che di natura non, cioè provenienti da natura, diciamo, da una situazione non etica, secondo quei principi che si diceva prima. Quindi non soltanto illecita, cioè più illecita è non etica in quanto illecita, però se anche è lecita, ma è o deriva da sfruttamento di lavoro minorile, faccio per dire, ancorché sia lecito, Però io mi impegno a non versarlo in banca ICA, non così. Poi ci sono un po' di altre cose, appunto, relative all'ambiente, relative alla... Vabbè, insomma, un po' così. E come si fa a controllare nel caso si scopre che non succede questo, che se si fa il capitale torna a quello messo? Ma dunque, siccome allora si tratta, cioè, sono due aspetti diversi, nel senso che se uno i soldi che uno ha dato a Banca Etica li può aver dato sostanzialmente in due forme, sono di più, ma due. Uno è perché è socio, quindi ha una quota di capitale sociale, e un'altra è perché è cliente, quindi ha versato dei soldi sul conto corrente, oppure ha comprato dei prodotti finanziari, dei buoni, delle obbligazioni, insomma, le varie cose così, no? Allora, nel caso che si scopra che questi soldi sono di provenienza illecita, sostanzialmente questa persona ha violato un contratto, perché ha fatto un contratto con la banca dicendo io non verso soldi di provenienza illecita. Se si scopre che sono di provenienza illecita, vuol dire che ha violato il contratto, quindi ci sono i normali strumenti civilistici, diciamo, che un contratto fra due persone, giuridiche, fisiche che siano, no, io posso, diciamo, risolvere questo contratto, per esempio, no? E quindi eventualmente restituire i suoi soldi e viene così. Se è socio, la cosa è analoga, però in qualche modo passa attraverso il recesso da socio. Cioè, una delle cause che determinano l'esclusione da socio è quella di non aver rispettato le regole che ci sono. Naturalmente sono due percorsi diversi. Poi, alla fine è chiaro che comunque il cappello è quello del codice civile, no? Alla fine il cappello è quello, no? Però sono due percorsi diversi che comunque determinano questa cosa. Ovviamente un socio ha diritto a difendersi, no? C'è il comitato etico, il caso verrà presentato, a meno che non sia proprio talmente eclatante che non c'è neanche bisogno di discuterne, no? O talmente inconsistente che anche in quel caso non c'è bisogno di discuterne, no? Ma in tutte le situazioni intermedie ci sono diversi organi all'interno della banca, di cui l'organo alto che presiede a queste cose è il comitato etico. Se alla fine il comitato etico stabilisce che quella cosa non è etica, viene, diciamo, il percorso viene avviato il motivo del recesso, diciamo, il recesso da socio di quella persona o impresa che sia o società che sia. Dicevo quindi, Banca Etica fra le sue proprio caratteristiche costitutive, no, ha una particolare attenzione all'ambiente. Ci sono almeno un paio di regole di quelle che dicevo prima che sono legate al discorso ambientale, e una è quella di rifiuto del nucleare, che è esplicita, no? Rifiuto di finanziare i piani nucleari. E l'altra invece è quella di diciamo di non danneggiare l'ambiente, ecco. Poi dopo, cosa significhi danneggiare l'ambiente? Ovviamente, probabilmente siete anche più esperti di me, su almeno qualcuno di voi, ma insomma, comunque è chiaro che io sono qua, respiro, produco CO2, insomma, non è, no, per cui sto danneggiando l'ambiente, forse sì, non lo so, però esiste, c'è modo e modo di fare le cose, no? Se nello spostarmi mi sposto in bicicletta è un discorso, se vengo con un motore 5.000 di cilindrata e così è un altro, ecco, no, così, no? Quindi diciamo... esiste comunque questa regola generale, no, sul fatto di finanziare specificamente cose che conducono verso un rispetto dell'ambiente, un maggior rispetto dell'ambiente. All'interno del maggior rispetto dell'ambiente, Banca Etica ha 10 anni di vita, quindi in questi 10 anni anche la percezione si è evoluta. No, la percezione di queste cose si è evoluta e in particolare negli ultimi anni ha preso molto peso l'idea dell'energia, l'idea dell'energia che sostanzialmente si esplica su due fronti. Da una parte il risparmio energetico, no? Perché sappiamo che l'energia, siccome la quantità di energia diciamo a disposizione è quella, se se ne spreca si fa un danno all'ambiente maggiore che se se ne spreca di meno, se ne usa di meno, no? Quindi da una parte il risparmio energetico, da quell'altra la produzione di energia da fonte rinnovabile. Dove poi, appunto, probabilmente, ora, questo è il modo con cui si dice in generale, da un punto di vista puramente tecnico, produzione di energia non è un termine corretto, nel senso che l'energia c'è, è quella, e non si produce, l'energia si trasforma soltanto, da una forma a un'altra. No? Per cui, produzione da fonte rinnovabile significa inserirsi in un ciclo naturale in cui l'energia si trasforma in modo naturale e ritorna, dopo aver passato diversi livelli di trasformazione, ritorna allo stato iniziale. Anche questo, voler proprio essere puntigliosi, non è corretto, perché da un punto di vista fisico l'energia non ritorna mai allo stato iniziale, ma noi fortunatamente non viviamo in un sistema isolato. Il nostro pianeta non è un sistema isolato, fondamentalmente scambia energia con altri oggetti, in particolare col Sole. No? E quindi questo ciclo è garantito dal fatto che in realtà ci arriva dell'energia in surplus dal Sole, sostanzialmente. Adesso si potrebbero fare dei discorsi più precisi, ma non voglio fare un corso sull'energia. Così, no? Però diciamo, quindi è questo quello che si intende quando si dice da fonte rinnovabile, significa che quella fonte da cui io traggo l'energia poi si ricostituisce in un tempo ragionevole rispetto al tempo che io ci metto per usare questa energia. No? Se io traggo energia, adesso non entro nel dettaglio, ma è soltanto un esempio, se io pianto degli alberi e uso il legno che si è prodotto per produrre energia, no? E intanto che taglio l'albero, accendo il fuoco, mi scaldo, eccetera, eccetera, l'albero ricresce, fondamentalmente solo in un ciclo rinnovabile, perché il bosco è sempre lì, non l'ho buttato via, non è che dopo. Se invece uso il petrolio anche quello si rinnova, soltanto che ci mette talmente tanto tempo che intanto io l'ho consumato tutto molto prima che se ne sia formata anche soltanto una goccina, no? E quindi per quello non è rinnovabile. Allora, vabbè. Quindi interventi di risparmio energetico da una parte, interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile. Cosa fa Banca Etica in questi due sensi oggi? Sostanzialmente lavora su due piani diversi. Il primo piano è quello sostanzialmente di prestare soldi a chi vuol fare cose di questo genere, no? Anche si sentiva anche prima, no? Ho ascoltato un pochino quello che diceva il relatore precedente, uno dei grossi problemi di tutte queste cose qua, sia del risparmio energetico sia della produzione a fonte rinnovabile, è che intanto bisogna iniziare a pagare, no? Si investe una certa quantità di capitale, poi dopo col tempo arriva il beneficio. Dal punto di vista economico, il beneficio dal punto di vista ambientale arriva magari anche subito, ma dal punto di vista economico il beneficio arriva poi col tempo. Tanto bisogna crederci che nel tempo arriva, no? Parlava di difficoltà con tante banche, no? Se la banca non ci crede che poi arriva il beneficio, non ti presta i soldi. Banca Etica ci crede e quindi ha cercato di prestare questi soldi. E comunque il problema c'è, nel senso il problema c'è che io all'inizio devo incominciare a spendere dei soldi. Quindi questi soldi se non ce li ho, come faccio? Bene, allora Banca Etica, che è nata per questo, no? È nata per prestare soldi a situazioni etiche, no? Così, no? Ritiene che questa sia una cosa necessaria, utile per il bene comune, eccetera, eccetera, per cui ha studiato dei prodotti finanziari, si chiamano così, che permettono appunto di fare questa cosa qua, e sostanzialmente sono dei, fondamentalmente dei mutui, no? La struttura è quella del mutuo, io chiedo un prestito alla banca, la banca mi dà questi soldi, e io nel tempo stabilito, con i tassi che ho stabilito, insomma con tutte le regole che ci sono per questo genere di cose, restituisco questi soldi. Un punto importante di questo è che il rischio è in parte mio e in parte della banca. Quello della banca si chiama rischio finanziario ed è l'oggetto stesso del fare banca, diciamo così, che presuppone che ci sia questo rischio, perché quando tu presti soldi a qualcuno, per qualsiasi motivo, anche indipendente, potrebbe essere che questo i soldi non te li restituisce. E questo è il rischio finanziario. Invece, in questo caso qua, il rischio, il cosiddetto rischio di impresa, viene assunto da chi si fa prestare i soldi, non dalla banca. La banca non assume su di sé il rischio di impresa. Dice, queste sono le regole con cui mi devi restituire i soldi. Dopo che quei soldi lì tu li abbia usati per fare qualcosa di produttivo, oppure che tu li abbia buttati da qualche parte, che tu non sia riuscito a realizzare quello che volevi, così, sono affari tuoi. Questo non ha niente a che vedere con l'eticità, cioè non è una questione etica, è questione dell'oggetto di essere banca. La banca, cioè l'oggetto di essere banca è questo, non significa che a me non me ne frega niente di te, significa che ci siamo messi d'accordo così, ci siamo ripartiti il rischio. Tu ritieni di essere capace di fare impianti fotovoltaici fatti bene, eccetera, eccetera, o ritieni di avere qualcuno che te li fa bene, eccetera, eccetera, bene, ti assumi il rischio e ti presti i soldi, ma poi i soldi anche devi spiegare agli altri clienti. Sì, si sì, si fallisce sì. Una parte della banca e poi gli altri ci ne mettono. Esatto, esatto, sì, sì, sì. No, certo, infatti. Posso fare una domanda? Il finanziamento soltanto a singoli o anche aziende? No, anche aziende. Anche aziende? Anche aziende, sì. Grazie. Adesso poi bisogna distinguere fra quello che sono, perché ogni volta che tu chiedi un mutuo ad una banca, in linea di principio parte quella che viene chiamata un'istruttoria. Certo. No? No. Allora, l'istruttoria, se il prodotto è una cosa assolutamente standard, se ti vuoi fare un pannello fotovoltaico per casa tua, così come l'hanno già fatto in 100.000, c'è poco da istruire, no? La cosa va via per conto suo, diciamo, in modo abbastanza. L'operativo che parla con te sa già quali sono i parametri della banca, ti dice tutto. Se tu invece hai un'idea innovativa particolare, magari un'azienda che vuol fare quelle cose di cui parlava prima Andreoli. Così no, cioè allora bisogna fare un progetto ad hoc, bisogna così. Banca Etica ha un suo ufficio progetti che in particolare si occupa, cioè buona parte del lavoro dell'ufficio progetti è di coprogettare, ovviamente dal punto di vista finanziario, non dal punto di vista tecnico, così, però per progettare finanziariamente bisogna avere anche delle conoscenze tecniche, non lo diceva appunto ancora anche Andreoli poco fa, no? Cioè non è che uno può progettare finanziariamente senza sapere che cosa sta finanziando, no, questo appunto, dopo vengono fuori i derivati, vengono fuori i subprime, eccetera, eccetera, a furia di non sapere che cosa stai finanziando, no? Invece eticamente noi vogliamo sapere che cosa finanziamo, quindi il nostro ufficio progetti, ci sono delle persone che conoscono la problematica ambientale in generale, energetica in particolare, energie rinnovabili, eccetera, eccetera, e quindi sono in grado di valutare un progetto da questo punto di vista. Ovviamente se bisogna arrivare all'ufficio progetti che dia il suo benestare, eccetera, eccetera, la pratica, diciamo, diventa un pochino più pesante, no? E magari se è una cosa da pochi soldi non va proprio la pena, perché il costo dell'istruttoria diventa più grosso di quello che è il vantaggio che poi uno può avere. Finanziato e non sponsorizzato progetti pilota, per esempio? Sì, certo, ci sono stati progetti, per esempio ci sono stati dei progetti equal che sono serviti quindi finanziati con soldi pubblici, però nel senso ci sono dei soldi pubblici che vengono dati a fondo perduto per fare il progetto, poi c'è la gestione finanziaria che viene fatta dalla banca, no? Che come banca presta per poi avere indietro, diciamo così, no? E poi ci sono stati dei consorzi, delle cooperative sociali, eccetera, eccetera, che sono state in qualche modo beneficiarie di questa cosa, che hanno studiato, per esempio, la possibilità di impiantare, per esempio, degli impianti fotovoltaici utilizzando cooperative sociali. No? Quindi mettere assieme l'idea della cooperativa sociale, in particolare la cooperativa sociale di tipo B, per chi se ne intende, no? Con il settore ambientale energetico, che sono due cose che normalmente non andavano tanto d'accordo, diciamo così, no? Per tradizione, perché le cooperative sociali sono nate facendo certe cose, fanno i giardinaggi, fanno le pulizie, fanno così, ma tradizionalmente non fanno gli impianti fotovoltaici. Invece l'impianto fotovoltaico per sua natura si prestava in qualche modo a questa cosa, sono stati fatti dei progetti pilota appunto per vedere se si riusciva a fare questa cosa. C'è un consorzio a Perugia, cioè un consorzio che ha sede a Perugia ma che poi si espande abbastanza a macchia di leopardo un po' su tutto il territorio nazionale, che tramite questo progetto ha fatto partire questo tipo di lavoro per alcune cooperative sue socie. Insomma, questa è una cosa che so io, poi ce ne sono state delle altre che adesso non saprei bene. Sono un'azienda che si occupa di impiantare pannelli fotovoltaici e ha bisogno di un finanziamento, deve per forza passare all'ufficio progetto, già sa fare il suo lavoro eccetera, oppure chiedendo il finanziamento voi verificate se la serietà dell'azienda eccetera e le lodate? Dunque dipende, perché sono cose diverse. Normalmente l'azienda, cioè una cosa è io privato o anche azienda voglio fare un impianto fotovoltaico, ma nel senso come utente lo voglio fare per me, non che io sono un installatore. Ci arrivo. Però separo le due cose. Okay, sì. Cioè, se è questo, la via classica è chiedere un mutuo, faccio il conto energia mi dà i soldi per pagare il mutuo e diciamo, grosso modo, la cosa va così. Non è proprio così liscia, ma vabbè. Così, no? Un'altra cosa invece è un'azienda che fa impianti. Che li fa lei, no? Allora, un'azienda che fa impianti normalmente non ha bisogno del finanziamento... Installa impianti. Non ha bisogno del finanziamento per fare l'impianto, perché quello è un finanziamento che va sull'utente finale. Sì. Quello che ho bisogno come azienda è una cosa diversa, per esempio un fido, un anticipo fattura, vado a comprare del materiale e che poi mi verrà pagato dopo, sì, no? Tipicamente. Questo. Esatto. Ecco. Naturalmente queste cose si fanno ritualmente, dipende dall'entità del fido. No? Perché se voglio un fido modesto, questo è nelle possibilità di delibera del direttore della filiale. Se voglio un fido più importante, allora devo risalire la gerarchia, così. Poi dipende anche da su che tipo di progetto di business io chiedo il fido, perché se è una cosa particolarmente innovativa, bisogna studiarla, no? Perché è vero che io mi assumo solo l'onere finanziario, solo il rischio finanziario, ma il rischio finanziario su cose particolarmente innovative può essere troppo grosso da poter essere sostenuto. Quindi cose di questo genere. Hai scelto il problema, grazie. Così immagina il numero di massimo. Sì, va bene. Scusami, mi aperto, scusate. Bene, allora, questo è, cose abbastanza classiche. Poi successivamente però si è capito che c'era un altro problema. Il problema è che molte persone, soprattutto enti pubblici, ma anche privati, eccetera, eccetera, non erano disposti ad assumersi il rischio industriale del progetto. Perché il rischio finanziario, ok, quello è una cosa, ma il rischio industriale è un altro, no? E così. Proprio per facilitare questo tipo di operazioni, invece è stato pensato di fondare un'azienda di tipo ESCO, che sono quelle aziende di cui avete sentito parlare fino a poco fa. Quindi è stata fondata questa azienda che si chiama Innesco, che è di proprietà di Banca Etica. Francamente non ricordo se è al 100% o se è meno del 100%, ma comunque, insomma, comunque di proprietà di Banca Etica, controllata da Banca Etica, e che ancora una volta finanzia interventi di risparmio di produzione di energia da fonti rinnovabili con la modalità ESCO, che non vi sto a spiegare perché mi sembra che l'avete già vista abbondantemente, poi un po' ci torno anche comunque. Il problema non è un problema, la scelta è stata che la dimensione di questa azienda fosse di tipo regionale, perché noi crediamo che per fare una ESCO fatta bene bisogna essere presenti sul territorio. Quindi non si può fare la multinazionale ESCO, noi non ci crediamo. Noi crediamo a un'azienda che è radicata sul territorio, conosce la situazione, sa così, perché ci sono dei fatti fiduciari abbastanza importanti. Dicevo appunto, il rischio di una ESCO è anche il rischio industriale, non è soltanto il rischio finanziario, no? Il rischio finanziario se lo prende la banca, il rischio industriale se lo prende la ESCO, ma se la ESCO è di proprietà della banca vuol dire che è tutto lì il rischio, no? Allora bisogna avere dei sistemi per mitigarlo questo rischio, e uno di questi è avere una dimensione territoriale. Così. Purtroppo Banca Etica ha sede a Padova e la ESCO l'hanno fatta a Padova e quindi lavorano soprattutto nel Veneto. Però noi, io e altri soci che non siamo del Veneto, stiamo insistendo, stiamo lavorando, eccetera, eccetera, perché questa esperienza venga replicata in altre regioni. Quindi speriamo di poter arrivare ad avere questa possibilità anche noi. Qua invece vi dico due parole su che cos'è una mutua autogestione, sigla MAG, che è un'altra esperienza finanziaria. Alcune MAG, in Italia ce ne sono una decina, grosso modo, alcune di queste sono socie di Banca Etica e hanno fondato una Banca Etica, altre invece non hanno condiviso il percorso e hanno deciso di farsi delle cose da sole. Non voglio entrare qua nelle polemiche. Ma vi spiego un attimino di che cosa si tratta, perché poi mi serve per dirvi le cose successive, no? Allora, si tratta di una società finanziaria che di solito è una cooperativa, quelle che conosco io sono cooperative, no? E c'è un motivo per questo, raccoglie capitale e prestito sociale diffuso su un territorio limitato. Cosa significa? Cioè, diffuso vuol dire che il capitale proviene da tante fonti diverse, cioè tanti soci sul territorio, ciascuno ci mette, chi ci mette 1000 euro, chi ce ne mette 500, chi ce ne mette 10.000, e questo capitale, diciamo, non viene da un unico ente, persona giuridica o fisica che mette lì il capitale, così, come tipicamente succede nell'SRL, no? Nell'SRL succede che ci sono pochi soci che mettono il capitale, è finita lì, dopo fanno quello che devono fare. Ecco, invece, questa è una società finanziaria, quindi deve avere le spalle abbastanza robuste, no? per poter fare finanza, lavorare nel credito. La legge italiana prevede che una società finanziaria debba avere almeno, mi sembra, 800.000 euro di capitale sociale, tanto per dire. No? Quindi, diciamo, deve... così... su un territorio limitato, anche qua si torna alla territorialità come prima, no? In questo caso il motivo della territorialità specifica delle MAG è che le MAG nascono per finanziare dei progetti di forte valenza sociale all'interno dello stesso territorio in cui raccolgono capitale, cioè cercano di mettere in piedi quella, se mi consentite, una filiera corta finanziaria, diciamo, no? Quello che nel campo dell'agricoltura viene chiamata la filiera corta, no? Il contadino produce per la gente che sta sul posto, e quindi così, no? Ecco, la MAG fa la filiera corta dal punto di vista finanziario, no? Come idea. Perché questo? Perché l'importanza sociale, la valenza sociale dei progetti è certificata dagli stessi soci che ci mettono i soldi, no? Se io vado a fare un progetto in Calabria, magari è il progetto più bello del mondo, ma in Calabria io non ci conosco nessuno, non lo so se è il progetto più bello del mondo o se è soltanto una vetrina che qualcuno mi mette lì per ottenere dei soldi. Se invece finanzio delle cose a Pisa, c'è molta più probabilità che io sappia chi è che ha le mani in pasta, chi è che segue la cosa, se sono persone valide, ragionevoli, eccetera, eccetera, e se effettivamente il progetto ha una ricaduta, ha quella ricaduta sociale che io mi proponevo. No? Perché in questo caso stiamo parlando appunto di finanza etica, no? Stiamo parlando di soldi che devono sì mantenersi, insomma, non essere buttati via, ma devono produrre qualità sociale, devono produrre un interesse sociale, come viene detto negli slogan anche di banca etica. No? Quindi questa è una MAG. Quindi una MAG è una società tra persone, no, forse. Ci sono anche le MAG che sono fatte da cooperative, diciamo, quindi da persone giuridiche, non solo persone fisiche, ma comunque sempre persone, quindi molto radicate, diciamo, cioè il concetto di persona, anche se giuridica, non deve andare a finire appunto verso il concetto di multinazionale, è sempre una persona di cui conosco il volto, diciamo così, no? Anche se è una persona giuridica. Si basa su un rapporto fiduciario tra soci, e questo tutte le società si basano sul rapporto fiduciario tra soci, che decidono collegialmente cosa finanziare. Le realtà finanziate vengono valutate e conosciute personalmente dai soci, sanno che cosa stanno facendo. Così. Questa è una mutua autogestione, una MAG. Così. Qua avevo previsto anche una slide per le Energy Service Company, ovviamente avete approfondito già prima, però mi interessava puntualizzare appunto tre cosette che sono, dal mio punto di vista, sono importanti. Allora, l'Energy Service Company investe in prima persona, si assume lei il rischio industriale dei progetti. No? I soldi se li farà dare da chi se li fa dare, ma il rischio è suo. Questo, cioè, la sua ragione d'esistere è questo. E naturalmente a rischio corrisponde anche guadagno, beneficio, no? Insomma, così, quindi, oneri e onori, come si dice, no? Così. Poi, è un punto di raccordo che non è soltanto, è una, diciamo, ha una forte valenza finanziaria, no? Ma non è solo finanziario, è anche mette assieme finanziario e tecnologico. Perché, dicevo prima, come fa ad assumersi questo rischio? In base a che cosa si assume questo rischio? Non si assume questo rischio in base a dei tassi molto alti, no? Tipicamente, no, nei sistemi finanziari, quando c'è molto rischio, allora ci sono tassi molto alti. Perché così, se va male da una parte, va bene da quell'altra, con quello che guadagno da quell'altra, mi ricopro la perdita da questa parte, no? L'ESCO invece non fa un discorso di questo genere. L'ESCO si assume il rischio perché conosce il rischio, perché conosce la tecnologia che sta utilizzando, sa che è una tecnologia buona, no? E quindi mitiga il rischio in questo modo, perché conosce quella cosa. Non mette soltanto lì dei soldi perché qualcuno faccia, ma si preoccupa lei che tutte le cose vadano bene. Se io mi sono assunto l'onere di fornire calore, di fornire energia a una certa struttura, calore e elettricità, no? Per esempio facendo la cogenerazione di cui si parlava anche prima, no? Così, no? Lo faccio, mi assumo il rischio, cosa vuol dire? Vuol dire che io so che lì ci metto una macchina che funziona bene, ho le mie garanzie, conosco quello che sto facendo, so da dove prendo il materiale, so che funziona, so che se per caso si guasta intervengo e riparo il guasto, quindi in questo modo mi garantisco che il beneficio arrivi veramente, perché il beneficio, se io non riesco a produrre quell'energia che ho promesso, il beneficio non mi arriva, i soldi però li ho spesi lo stesso. Allora questo è proprio lo specifico, a mio modo di vedere, della ESCO. Ecco, un ESCO di per sé non necessariamente utilizza fonti rinnovabili. Può fare può fare le peggio cose, perché la ESCO è un meccanismo, diciamo, di gestione dell'energia. Poi che l'energia sia da fonte rinnovabile o da così, questo non sta nello statuto di una ESCO qualsiasi. Magari può stare lo statuto, sicuramente sta nello statuto di Innesco, la ESCO di Banca Etica, no, su questo non c'è dubbio. E così come di fatto poi nelle cose, le ESCO, quelle vere, non quelle che si sono iscritte all'albo di cui raccontava il socio prima, no? Ma le ESCO, quelle vere, quelle che sono nate per far le ESCO, tutte lavorano con le energie rinnovabili, no? Perché la logica porta lì, no? Però di per sé non è una cosa garantita. No, e qua arriviamo alla cooperativa Elabor. La cooperativa Elabor è una piccola cooperativa, non ho messo piccola, ma di fatto poi è lo stesso, è una piccola cooperativa di produzione lavoro a vocazione tecnologica. Significa cooperativa di produzione lavoro, significa che formalmente non è una cooperativa sociale, non è una società di tipo no profit, è una società cooperativa, ma di quelle cosiddette responsabilità limitate, cioè che non hanno altri vincoli se non il fatto che comunque il capitale che hanno è quello che possono impiegare per fare le cose. Così, no? Produzione lavoro significa, in particolare in tutti i tipi di cooperative che esistono, che lo scopo dei soci che si associano nella cooperativa è procurarsi del lavoro. Cioè la cooperativa, il suo scopo di esistere è dare del lavoro ai soci. Inizialmente è nata, vocazione tecnologica. Perché vocazione tecnologica? Perché all'inizio il lavoro specifico che abbiamo fatto, e comunque ancora oggi la parte più grossa del lavoro della cooperativa, è nel campo informatico. Questo per il semplice motivo che quello era il lavoro che io sapevo fare, quindi era il lavoro che ho proposto agli altri di far con me. Così, no? È inserita nel mondo etico e sociale pisano, banca etica, i gruppi d'acquisto solidale, il distretto d'economia solidale che ancora non esiste, però ci stiamo lavorando, e tutte queste cose qua. Qualche legame con la cooperativa ce l'hanno, o perché il sito glielo ospitiamo noi, o perché la mailing list, o perché comunque partecipiamo, eccetera, eccetera. Però diciamo, siamo ben inseriti in questa cosa, no? Perché il motivo per cui ci siamo messi assieme non era soltanto, anche se formalmente era quello di procurarsi del lavoro, no? Ma questo è soltanto il primo dei motivi. In realtà ci sono altri motivi, che sono fondamentalmente quello di garantire alle persone, ai soci, no? Alle persone che ci sono, la possibilità di lavorare, ma anche la possibilità di diventare più forti su quello che viene chiamato il mercato del lavoro, cioè formandosi continuamente, imparando sempre nuove cose, imparando dal contatto con gli altri. Per cui, per esempio, ci sono delle persone che lavorano per noi, che se non lavorassero per noi non lavorerebbero da nessuna parte, o in strutture protette, tipo le cooperative sociali B, oppure da noi, non ci sono alternative. La differenza è che nella struttura protetta il concetto è un concetto statico. Non voglio parlare male delle cooperative B, perché anzi fanno un lavoro assolutamente meritorio, no? Per cui in realtà anche loro cercano di emancipare le persone. Però in qualche modo si dà per scontato che più di tanto, dal punto di vista lavorativo, quella persona non possa dare. E infatti c'è la sua quota riservata, no? C'è il 30% di quote di lavoro che sono riservate a persone che hanno degli svantaggi conclamati. No, si dà per scontato che più di quello non possono fare. No, così. Poi magari invece, se si riesce a lavorarci bene, si scopre che possono fare anche di più, però si parte da questo concetto. Noi invece partiamo dal concetto che una persona che è debole sul mercato del lavoro, se non ha appunto particolari svantaggi, ha voglia di lavorare, voglia di imparare, eccetera, eccetera, può diventare invece una persona forte, facendo un percorso, un cammino di formazione, di lavoro con gli altri, impara a fare le cose e diventa una persona forte, diventa a sua volta una persona che può formare degli altri e far ripartire il ciclo così. E poi anche l'altro obiettivo era quello di offrire a tutti accesso a tecnologie moderne a prezzi accessibili, perché se noi prendiamo il mondo tutte delle piccole aziende familiari o poco più che familiari, le piccole cooperative eccetera eccetera, se queste vanno, dice ma io ho un problema di tipo informatico, vado all'IBM, gli chiedo un progetto per così, cioè non hanno nessuna possibilità di questo, cioè loro possono consumare dal punto di vista informatico soltanto quello che passa al convento. No, così, no? E noi invece dicevamo, ma siccome invece poi ci sono delle esigenze specifiche, no? Noi vogliamo fornire la possibilità a queste aziende di accedere a queste tecnologie, all'inizio informatiche e successivamente anche relativamente al risparmio energetico, eccetera, eccetera. No? Adesso per esempio ci abbiamo in mente un progetto, progettino da poco, ma significativo per noi, che mette assieme le due cose, perché ci sono degli installatori di pannelli fotovoltaici, con cui abbiamo dei rapporti e così, che ci hanno chiesto, ma perché non ci fate un programma, un software che ci permette di gestire facilmente il ciclo dell'ordine fino ad arrivare alla fatturazione? Che ha dei problemi suoi specifici, eccetera, eccetera. È chiaro che ci sono i programmi Zucchetti che permettono di fare queste cose, ma non sono specifici, fatti apposta per loro, con le loro modalità, e loro si devono arrangiare in qualche modo. No? Allora, per esempio, questa è una cosa su cui stiamo pensando di lavorare, ancora è soltanto un pensiero, ma speriamo che si realizzi. Oh, l'altra cosa che caratterizza la cooperativa Elabor, come tante altre cooperative, ma è così, è la presenza di soci finanziatori, cioè oltre ai soci che si sono associati perché cercavano lavoro, fondamentalmente, no? E quindi chiedevano alla cooperativa di dar loro del lavoro, ci sono degli altri soci che invece, condividendo il progetto, hanno deciso di acquistare delle quote di capitale della cooperativa in modo da aumentare il capitale sociale della cooperativa e permettergli di fare certe cose. All'inizio noi facevamo soltanto informatica. Per fare l'informatica noi avevamo un capitale sociale di 450 euro. Eravamo in 9, ci abbiamo messo 50 euro per ciascuno. No? Perché tanto mica serviva tanto di più. I calcolatori li abbiamo pagati col primo progetto che abbiamo fatto quando ci siamo partiti, perché i calcolatori costano abbastanza poco. Ancora adesso stiamo lavorando con alcuni dei calcolatori che abbiamo comprato 10 anni fa, più altri che abbiamo rubato in discarica dei tempi successivi, più un paio che ci hanno regalato e uno che abbiamo comprato, no? E diciamo, e vabbè, insomma, non c'era bisogno di tanti soldi per far quello. Quando abbiamo incominciato a interessarci al discorso dell'energia invece, allora lì invece i soldi sono un'altra cosa, perché per fare un pannello fotovoltaico da quattro soldi, i quattro soldi sono sempre 15-20 mila euro. Così, no? Allora ci siamo trovati nella necessità di aumentare il capitale sociale. Attualmente fra capitale sociale e riserve abbiamo attorno ai 13-14 mila euro, che appunto ci sono stati forniti in parte dai soci che hanno aumentato le loro quote di capitale, quelle che volevano volontariamente hanno aumentato la quota di capitale, e poi perché sono entrati alcuni soci che non avevano nessun interesse a lavorare per la cooperativa, ma che avevano invece interesse a finanziare queste attività della cooperativa. E questo, tra l'altro, è anche una cosa che fino adesso noi abbiamo fatto in modo abbastanza cauto, ma che se dovessimo aumentare le cose, noi probabilmente andremo in giro presso questi mondi di riferimento con cui abbiamo un rapporto a dire ragazzi, qua ci sarebbe la possibilità di investire dei soldi per il bene comune e senza rimetterci, perché a volte si pensa garanzie per i finanziatori, le garanzie non ci sono. Quando tu compri le azioni della Parmalat avevi garanzia, no, ma se compri le azioni della Fiat c'è garanzia, no. Sì, c'è la garanzia che quelli riescono sempre a farsi finanziare, sì. Però il giorno che non riesco più a farsi finanziare, no, la garanzia rispetto a voi è che voi avete dei progetti da portare avanti, sapete, certo, e il discorso, infatti l'idea, come vedete qua, è come nelle mag, no? facciamo una cooperativa. La nostra idea è di fare un qualche cosa. Vedete che ci sono diversi discorsi che in qualche modo si. Se tu parti da un discorso di tipo etico, però ci inserisci il discorso fonti rinnovabili in modo stabile, ci inserisci il discorso etico in modo formalizzato, vedi che questa cosa la puoi fare soltanto su un territorio limitato, ma su un territorio limitato puoi anche fare la MAG. No? Allora, se tu metti tutto questo assieme, viene fuori il progetto che appunto noi chiamiamo il progetto, vediamo se è questo, sì, sì. Il progetto MAG ESCO, no? Che precisando che la Elabor non è né una MAG né una ESCO, no? Però ha questo progetto che mette insieme in qualche modo le due idee, no? E si propone di fare questo, quindi realizzare interventi, ancora una volta, risparmio energetico, generazione di energia da fonte rinnovabile, raccogliendo capitale e prestito sociale, perché non c'è soltanto il capitale, c'è anche il prestito sociale. Una cooperativa, oltre che dai propri soci, può raccogliere anche del prestito, non soltanto del capitale sociale che ha una sua dinamica così, ma anche del prestito che è come un libretto di risparmio o come un conto corrente in banca, cioè uno ha dei soldi in più, li versa, li dà alla cooperativa, quando li vuole indietro, li ritorna indietro, alla fine dell'anno si fa il calcolo degli interessi e noi in questo caso sfruttiamo quello che i bancari chiamano il margine di intermediazione. Cioè cosa succede? Che normalmente quando tu presti dei soldi ad una banca, li presti a quelli che loro chiamano il tasso attivo, no? Che è un tasso abbastanza basso, oggi come oggi praticamente glieli regali, ma comunque tasso basso. Quando loro prestano i soldi a qualcun altro, usano il tasso passivo che è decisamente più alto. Allora, in questo margine ci stanno i guadagni di una banca che fa la banca, perché oggi le banche, quasi tutte non fanno più le banche. No? Le banche, quelle che noi chiamiamo banche, di fatto sono dei piazzisti di prodotti finanziari, così guadagnano, non guadagnano più sul fatto che hanno raccolto soldi da qualcuno e li prestano a qualcun altro, insomma, comunque guadagnano poco in questo modo, il vero guadagno lo fanno piazzando prodotti finanziari, da cui appunto tutta la bolla eccetera eccetera. No. Però invece la banca che fa la banca lavora su questo margine di intermediazione, cioè il suo guadagno sta lì dentro, ovviamente non è tutto guadagno perché lei ha le sue spese, no? Però se le spese sono più grandi del guadagno perde, se le spese sono più basse del guadagno allora riesce ancora a stare in piedi. No, allora noi cosa facciamo? Noi diamo un interesse. Paghiamo il prestito sociale a un tasso che sta in mezzo. Cosa succede? Che il socio che ci presta i soldi a noi guadagna più di quello che guadagnerebbe prestando i soldi ad una banca. No? In compenso noi lo paghiamo di meno di quello che pagheremmo se chiedessimo i soldi ad una banca. Non so se è chiaro. No? No, non è chiaro. Allora, proviamo a fare delle cifre anche se non sono vere. Supponiamo che io sono una banca, tu mi presti dei soldi, io ti do un interesse del 2%. Sì. No? Poi io presto i soldi a lui per fare un'altra cosa, gli faccio un mutuo così, e a lui gli faccio un tasso del 6%. No? Cioè quel 4% in mezzo lì che sostanzialmente è il mio guadagno. No, così. Se adesso mi metto dal punto di vista suo, sì. Lui i soldi li paga al 6%. Sì. No? Se tu glieli prestassi direttamente a lui, sì. Potreste metterti d'accordo sul 4%, tu guadagni di più e lui paga di meno. Sì. Sì. E la banca non guadagna niente in questo caso. No? È così. No? Allora, questo è quello che facciamo col prestito sociale. Ah. No? Con il prestito sociale ci permette di fare questa cosa, cioè noi ci facciamo dare i soldi, invece che chiedere dei soldi alla banca, chiediamo i soldi ai soci e li paghiamo di più di quello che gli darebbe la banca. Quanto li pagate? Cioè, attualmente li paghiamo il 3% lordo senza nessuna spesa. Però questo poi è un contratto, certo, cioè è un contratto di prestito, sì, e così. Per il momento siamo arrivati così. Il capitale invece, il capitale viene remunerato in una forma diversa. Il capitale viene remunerato a fine esercizio, quando si fanno i conti, si fa il bilancio, stabilisce c'è un certo utile. Questo utile cosa ne facciamo? Tutti i soci assieme decidono, perché l'assemblea decide sul bilancio, no? Per codice civile, non abbiamo inventato niente. L'assemblea decide sulla ripartizione dell'utile e decide quanto viene dato ai soci che vengono remunerati sulla base del capitale, quanto viene messo come riserva per quando ci saranno le cosiddette vacche magre, per chi così, no? Insomma. No, ma se c'è dell'utile vuol dire che la vacca è grassa. Sì. Se abbiamo dell'utile da ripartire, la vacca è già grassa, diciamo, così no. Comunque, insomma, oppure se darlo in beneficenza, potremmo anche decidere l'utile di darlo in beneficenza. I soci sono padroni, possono decidere quello che vogliono, no? E così, infatti, quindi, però il capitale, capite che appunto è molto più a rischio, perché il prestito sociale, se abbiamo un contratto, ti do il 3%, alla fine io lo rispetto fino a che non fallisco, perché poi se fallisco non ce la faccio, va bene, ma non è nei nostri piani questo. No, diciamo, il capitale invece, io non ti ho promesso niente, il capitale, vediamo alla fine dell'anno come sono andate le cose, se le cose sono andate bene, c'è tanto per tutti, se le cose sono andate male non c'è niente per nessuno. Questo è il... Ma c'è un minimo garantito? No. Tu quando compri le azioni, di una... Quando tu vai in borsa e compri delle azioni, hai una garanzia di qualcosa? No. Il capitale deve essere soci. Certo. Qua la differenza è che tu sai dove li hai messi questi soldi, non li hai dati a un'entità che non conosci, li hai dati alla tua cooperativa, che conosci, sai che cosa ci fa, i conti nostri, guarda, qualunque socio li può guardare in qualunque momento, non c'è nessun problema. Gli amici vostri, no? No, sempre soci. Per fare prestito sociale è solo da parte dei soci, Sì, allora, fino a che non sei cooperativa finanziaria, fino a che non hai raccolto almeno 800.000 euro, non ti sei costituito come cooperativa finanziaria, fino a quel punto lì tu non puoi raccogliere soldi da chiunque, puoi raccogliere soldi soltanto dai soci e per lo specifico, cioè per la costruzione del fine sociale. Se ti chiedo dei soldi, non è che ti chiedo dei soldi per fare qualsiasi cosa, certo. Ti chiedo dei soldi perché io ne ho bisogno per raggiungere il mio fine sociale. Allora, io voglio diventare socio di Elabor. Il capitale quanto è ora? Come ora? Il capitale entro con una quota uguale a quella degli altri, pari tempo? Dipende. Il capitale è diviso in quote. Il capitale è diviso in quote. E poi dipende se diventi socio finanziatore o socio cosiddetto lavoratore. Cioè, qual è il motivo per cui sei socio? Come socio finanziatore, attualmente le quote sono di 500 euro. Uno può comprare... Quindi io con 500 euro e divento socio finanziatore, sì. Mi faccio un prestito... Il prestito non può superare il triplo del capitale sociale, ecco, quindi se hai comprato una sola quota da 500 euro, puoi versare fino a 1.500 euro. Però i 1.500 euro sono, capito, con conto corrente bancario, no? Vanno e vengono, così, mentre invece il capitale sociale è un mattone che rimane lì, certo, e non, certo. Fino a che non recedi da socio, è lì. Ecco, capitalmente il prestito sociale, cioè questo 3% lordo annuo, sì. Che va, il capitale rimane lì. Il capitale viene remunerato con l'utile. Con l'utile a fine anno. E quindi a fine anno si vede, se c'è dell'utile si distribuisce. Ho capito. In ogni caso, veramente come politica non scritta, nel senso che non sta scritto da nessuna parte, però che noi ci sentiamo di sottoscrivere, non daremmo comunque più del 10%. Beh, no. Se no diventa perché diventa poi sbilanciata nei confronti dei lavoratori, certo, no? Certo. È chiaro che, cioè, se tu hai molto utile, certo, l'utile l'hai fatto perché c'è la finanza, ma l'hai fatto anche perché ci sono i lavoratori, no? Allora paga di più i lavoratori. o comunque mantieni un equilibrio. Ma il 10% che cos'è? Non date più del 10%? Se tu hai messo 500, hai comprato una quota, sì, hai messo 500 euro, sì, di capitale sociale, alla fine dell'anno non ti puoi aspettare di ricevere più di 50 euro di... Sì, capito. Anche meno, dipende da come vanno le cose, certo, però non più di 50 euro. Sì, vabbè, insomma, sì, cioè, ci vuole un equilibrio. Diciamo che ci sono, a questo punto, la società, mentre inizialmente, dicevo, quando c'era pochissimo capitale sociale, la società aveva fondamentalmente un unico stakeholder di riferimento, che erano i lavoratori, no? Lo scopo della società era far lavorare i lavoratori e quindi dargli uno stipendio ragionevole. Ricchi non c'è diventato nessuno nel lavoro, però diciamo così, no? Attualmente siamo in 6 che abbiamo un contratto, sono 2 a tempo indeterminato e 4 a progetto, fra cui io. Cioè, io sono il presidente ma sono a progetto, non sono a tempo indeterminato. Cosa stavo dicendo? Sì. Niente, con questo criterio. Cioè, il tipo di interventi che facciamo, poi qua c'è un esempio, il tipo di interventi che facciamo sono comunque interventi che si basano, come dicevo prima, sulla conoscenza finanziaria e tecnologica, e questo era quello che avevamo già detto per l'ESCO, ma anche sociale e ambientale, e questo era il discorso delle MAG, no? Cioè la fusione del discorso MAG e del discorso ESCO porta ad avere conoscenza finanziaria, tecnologica, sociale, ambientale, e tutto questo consente di limitare, a nostro avviso, drasticamente i rischi, no? E così un intervento sperimentale che abbiamo fatto è stato un impianto fotovoltaico fatto su un'abitazione tipo familiare, un impianto da 3 kW di picco, per intendersi, che è stato interamente sostenuto dalle Labor, in parte con capitale, in parte col prestito, diciamo, comunque interamente sostenuto dalle Labor. Per la verità noi abbiamo anche un fido presso Banca Etica, no? Per cui, diciamo, si potrebbe dire che è stato sostenuto anche da Banca Etica, però, diciamo, in modo un po' indiretto, no? Così. E, in cambio degli incentivi del conto di energia, e in questo caso abbiamo contrattato un terzo di energia prodotta, dell'energia prodotta. Sì. Da 3 kW. 3 kW di picco. In realtà la formula che abbiamo studiato qua è un pochino più complessa, secondo me anche suggestiva, nel senso che non abbiamo detto un terzo fisso, abbiamo detto partiamo con un terzo, poi vediamo come succede, come vanno avanti le cose. Se noi vediamo che l'impianto produce parecchio, possiamo anche rinunciare al nostro terzo. Se vediamo che produce troppo poco, magari chiediamo di arrivare a metà invece che a un terzo, no? Cioè, abbiamo impostato un rapporto fiduciario anche col cliente, che poi il cliente viene sempre fuori dai soliti circoli, non è che ne abbiamo preso uno che non conoscevamo, che così, no? No, Mario Facchini qua, non si va lontani, no? E, cioè, in questo senso quindi abbiamo stabilito per contratto che ogni anno stabiliamo la quota di energia che ci prendiamo. Come clausola di salvaguardia abbiamo messo che se un anno non riuscissimo a metterci d'accordo, perché la cosa dura 20 anni, sì, no? Quindi sai, 20 anni uno si parte amici e speriamo di arrivare in fondo. Diciamo, come clausola di salvaguardia per entrambi, abbiamo messo che se un anno non riusciamo ad andare d'accordo, vale l'accordo dell'anno precedente, sì, e si va avanti così, perché, però sarebbe una sconfitta, no? Sarebbe la sconfitta dell'idea che si può essere solidali, no? Perché se produco più energia, non ho capito questo. Se produco più energia, allora dicevo, che cosa guadagna l'Elaboro? L'Elaboro ha speso 20.000 euro, in realtà un pochino meno, ma insomma, comunque, ha speso 20.000 euro. Che cosa ci guadagna? prende gli incentivi del conto energia, tutti, quelli che ci sono li prende, più un terzo dell'energia prodotta. No? Allora, se viene prodotta più energia di quella preventivata, gli incentivi sono maggiori, quindi gli incentivi riescono già a coprire la quota di ammortamento dell'impianto. E quindi, energia prodotta. Sì. Voi vedete meno. Prendiamo meno energia prodotta, lasciamo al cliente. Perché ci vedete incentivi maggiori. Esatto, sì. Lo stesso discorso sarebbe se la regione toscana, che a volte è così, no? E invece che dare gli incentivi come li danno, cioè a discoro sciolto, certo, se li dessero con un criterio, certo, no? Così, probabilmente si potrebbe evitare questa quota e si potrebbe tranquillamente dire al cliente: guarda, l'energia prodotta è tua. Perché non so se capite il senso di questa cosa, che uno non spende niente. Mario Facchini, signore, non ha speso una lira. Sul suo tetto c'è l'impianto fotovoltaico e lui consuma l'energia elettrica del suo impianto fotovoltaico. No? Soltanto ci deve pagare un terzo, praticamente paga un terzo. Da quel momento in poi lui ha iniziato a pagare un terzo della sua bolletta. Ha cominciato a pagare un terzo della bolletta, quindi senza metterci niente, senza così. No. Noi però, se la Toscana avesse degli incentivi fatti in un modo più ragionevole di come lo fa, probabilmente si riuscirebbe a dirgli: non paghi più niente, cioè tu da d'ora in poi ti produci l'energia che consumi. E la regione prende gli incentivi. No. Sì, cioè io prendo gli incentivi nazionali del conto energia. La regione? No, io come rapporto. Il problema è che la regione dà gli incentivi come se fosse una lotteria. Nel senso, uno fa tutto quel che deve fare, poi alla fine chiede: ma per caso c'è un incentivo per me? No? Che è l'incentivo che non incentiva, no? Perché io, se non lo so che lo prendo, non sono incentivato a farlo. No, è soltanto un premio che guadagno, cioè ho vinto la lotteria. Ho vinto la lotteria, no? È così, no? Allora, noi non abbiamo vinto la lotteria, noi la lotteria non abbiamo vinto, per cui gli abbiamo dovuto chiedere i soldi a Facchini. Gli incentivi a conto originale sono soltanto per le imprese, non sono per le singole. Comunque noi siamo impresa. No, è quella che è stato già fotovoltaico. Sì, beh, certo. Sì. Però la famiglia. Sì, vabbè, ma sai, intestare l'impianto, uno lo intesta chi ti conviene. Esatto. Non è che quello, diciamo, anche nell'impresa etica, diciamo, ci sono. Cioè, proprio neanche questo coglione. È vero, dai, infatti, hai ragione. Io direi che credo di aver finito, sì. Se volete farmi delle domande. No, è perfetto. Interessante. Sono quasi le 6:30, allora se vogliamo fare altre domande. Un biglietto non ce l'ho. No. C'è l'email. C'è l'email. Paolo e te lavoro Linux. Ecco, questo ce la può lasciare. Sì. Infatti una domanda è stupida, sicuramente. No. All'incirca, da quanto verrebbe, cioè, quella versione della luce dell'impianto fotovoltaico a parte? No, non è un socio del valore. Allora, per cui lui non ha pagato, e ora titolo così un po', all'incirca quanto verrebbe la rata del variabile all'incirca? Dunque, facciamo qualche conto. Vediamo. L'impianto è un impianto da 3 kW. Un impianto da 3 kW si pensa che in un anno possa produrre 3600 kWh, diciamo, dalle nostre parti, così. Una stima né troppo ottimistica né troppo prudente, però insomma così, no? 3600 kWh. 3600 kWh, se tu fai un costo, bisogna vedere, perché lui tra l'altro consuma anche mica tanto, quindi insomma vabbè, facciamo un conto facile, diciamo 20 centesimi per kWh, viene quindi 720 euro all'anno, 720 euro all'anno, di, vuol dire ne paga un terzo e quindi ne paga 240. Senza tassi, senza niente, queste cose non c'è tassi. No, tassi non ha, niente. Non c'è niente. Cioè, lui prima pagava 720, sì, sì, adesso paga 240. Preso niente dell'impianto. Sì, sì, quindi non ha speso niente. Capito? Sì. No, è per 20 anni. Per 20 anni. Sì, poi vabbè, c'è poi la variabile. Poi dopo 20 anni, dopo 20 anni l'impianto, cioè il beneficio dell'impianto è tutto suo. Non ci sono più gli incentivi, perché gli incentivi durano 20 anni, ah. Però comunque quello che ancora produce l'impianto è tutta roba sua. Una cosa siamo 27 anni sono quelli vecchi. I vecchi cosa intendo invece? Di 27 anni fa. No, no. Allora, ci sono pannelli, quelli sono di produzione di luce, diciamo. Energia elettrica. Energia elettrica, quindi poi dopo con quello che ci si fa, energia elettrica. Sì. Non ci sa. Una cosa interessante che credo che valga la pena di ragionare è che questo meccanismo delle ESCO, nel caso di un ente pubblico, riesce, diciamo, uno dei problemi degli enti pubblici è la rigidità dell'impianto finanziario che hanno, cioè non hanno una facilità. Il problema sostanzialmente è che siccome in passato hanno fatto tutto quello che volevano, no? Allora gli hanno messo tutta una serie di vincoli per cui possono, diciamo, non possono manovrare più facilmente le partite finanziarie da una parte all'altra, così, no? E questo li rende più vulnerabili, perché se uno invece avesse la possibilità di spostare delle cose da immobilizzazione a conto economico, da così, cioè rendere, se loro fossero dei bravi finanziari, potrebbero sfruttare delle cose, ma non lo possono fare, perché anche se sono bravi non lo possono fare lo stesso, perché oramai hanno tutta una serie di gabbie così, no? Allora, il meccanismo ESCO mette a disposizione dell'ente pubblico una via d'uscita, diciamo, da questa cosa, perché adesso come adesso, per esempio, gli enti pubblici fanno fatica ad investire, perché siccome sono già molto indebitati, se investono ancora, si indebitano ancora di più, no? Beh, invece il meccanismo ESCO, siccome investe qualcun altro, diciamo, sostanzialmente li trasforma, gli porta l'uscita dal settore, diciamo, dal parte del bilancio che va agli investimenti, e la porta sulla spesa corrente, no? Allora, loro in questo modo possono giostrarsi, no? Se hanno bisogno di diminuire la spesa corrente, ma possono aumentare l'investimento, possono andare in una direzione. Se hanno bisogno di diminuire l'investimento e come contropartita aumentare la spesa corrente, questo meccanismo gli consente di farlo. Ma un ente locale potrebbe diventare ESCO o appoggiarsi a un ESCO, non capito? No, in questo caso sto dicendo che si appoggia ad un ESCO. In che modo si appoggia? Come fa? Allora, per esempio. Supponi che il Comune di Pisa decida che vuole risparmiare sul suo conto energetico. Lui vuole risparmiare soldi e energia, sì, perché vuole farsi la pubblicità delle cose ambientali, eccetera. Sì. Comunque vuole risparmiare. Sì. No? Allora, cosa dovrebbe fare? Per esempio, adesso un po' grossolanamente, sì, no? Investo, mi faccio un impianto fotovoltaico e il comune lo alimento col mio impianto fotovoltaico. Oppure investo, faccio un cappotto alla sede del comune e a quel punto lì pago meno di riscaldamento. No? Questo non può farlo. Perché non può farlo? Perché c'è un grosso investimento da fare. No? E le gabbie che ha gli dicono che lui non può indebitarsi di più, ha lavorato tanto negli anni scorsi per diminuire l'indebitamento, non può a questo punto decidere di aumentare. Anche se sarebbe favorevole, cioè in una gestione oculata, finanziaria oculata, sarebbe meglio investire per pagare di meno, per pagare di meno, mentre invece lui sì, è obbligato a pagare di più, è obbligato per legge, diciamo, a pagare di più. Consuma più, no? Esatto, no? Allora cosa succede? Lui si può rivolgere a una ESCO, la ESCO sostiene il costo o dell'impianto fotovoltaico o del cappotto o della coibentazione, eccetera, eccetera. No? E cosa gli chiede in cambio la ESCO? Gli chiede un'uscita che è regolata dal risparmio energetico conseguito. Quindi non è un investimento, è un'uscita, è un'uscita sulla spesa corrente. Cioè, ti dico, tu prima pagavi 100, continui a pagare 100, oppure addirittura paghi meno di 100, paghi 90, no? Me li dai a me, siccome io adesso pago 80, perché ho fatto, il resto ce lo guadagno. Quindi tu, in pratica, trasformi, dal punto di vista dell'ente pubblico, tu hai trasformato quello che era un investimento e quindi una cosa che stava nello stato patrimoniale, che pesava in certi ordini, nel passivo, eccetera, eccetera, no? L'hai trasformato in una spesa corrente. E questo magari ti dà la possibilità di fare una cosa che altrimenti prima non potevi fare, che se non ci fosse stato qualcuno che ti dava questa possibilità. Ti hai contattato il Comune di Pisa per caso? No, io non ho contattato il Comune di Pisa per diversi motivi. Comune l'hai contattato per caso? Cosa? Hai contattato qualche comune per caso? Io all'inizio, quando abbiamo iniziato la nostra attività, abbiamo contattato alcuni piccoli comuni della zona, perché piccolo comune perché noi siamo piccoli, diciamo, non volevamo bilanciarci troppo. Però non c'è stato, cioè sono tutte contatti che poi non hanno prodotto nulla. Quindi a un certo punto ho deciso di lasciar perdere gli enti. Invece in Italia ci sono dei comuni che sono affidati dalle ESCO per fare questo tipo di sì, ce ne sono. Per esempio, adesso di preciso non saprei dirti, però so per esempio Innesco nel Veneto ha dei contatti abbastanza importanti con alcuni comuni. Così. So che anche da loro hanno il problema che, ovviamente il problema di tutti gli enti pubblici, le cose vanno per le lunghe. Sì. No? Però le cose vanno per le lunghe, però stanno andando. No. Invece io praticamente, diciamo, sulla mia dimensione, la dimensione della cooperativa non è sufficiente per andare su un rapporto direttamente con il comune. No. E tra l'altro appunto noi siamo anche, poi, insomma, un po', sai, dipende dalle attitudini personali, no? A me piace, quando parlo con una persona che si parli chiaro, no? Che non, cioè, dopo due o tre volte che sento che me la regina in tutti i modi, allora senti, vado un'altra parte. Cioè, ognuno è fatto a suo modo, questo è posto per tutti. Ok. Bene, grazie. Grazie. Grazie Paolo, è stato molto interessante. Sicuramente ha finito il nostro programma. Allora, per sempre seduta, amica, il numero di telefono di Massimo è quello, forse trovato.